Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, seconda puntata dello speciale di Smart City dedicato alla blockchain. Iniziamo naturalmente ricordando di che cosa si tratta. La blockchain è un'architettura software, una tecnologia informatica che permette in buona sostanza di costruire database che non hanno un proprietario ma sono diffusi e coposseduti, diciamo così, da tutti i membri della comunità di riferimento. In pratica quello che accade è che ogni membro di questa comunità, ogni nodo, possiede una copia del database e ogni volta che avviene una transazione questa viene validata da tutti i membri, i quali verificano che sia coerente con le regole e con la storia precedente del database. Nel caso del Bitcoin, che è la più nota moneta elettronica, la blockchain permette in buona sostanza di gestire un registro contabile condiviso su cui viene tenuta traccia di tutti i conti in Bitcoin e di tutte le transazioni, quindi gli spostamenti di valuta tra un conto e l'altro, assicurando per capirsi che se io verso un bitcoin al signor Rossi, il signor Rossi abbia un bitcoin in più a disposizione sul proprio conto e io uno in meno, e tutto questo senza bisogno di una banca. Ed ecco quindi la promessa della blockchain, quella di eliminare gli intermediari in tutta una serie di mondi, come quello delle certificazioni, degli atti di proprietà e dei pubblici registri in generale, ciò che naturalmente non manca di preoccupare molte categorie. Ma quali sono i limiti di questa visione, di questa idea? Ne parliamo con Oreste Pollicino, docente di diritto dei media dell'Università Bocconi e direttore del portale Media Laws. Buonasera, buonasera Oreste, benvenuto. Buonasera, grazie mille per l'invito. Allora, Oreste, che cosa garantisce la blockchain e poi vediamo che cosa invece non garantisce la blockchain? La domanda è sicuramente puntuale, quindi a mio avviso in che cosa garantisce? Perché sicuramente qualcosa garantisce. Garantisce il blockchain l'autenticità di un'operazione, cioè di fatto si ha la conferma assoluta che le parti coinvolte hanno in qualche modo potuto verificare l'autenticità e la corrispondenza delle transazioni. Ma attenzione, è un'autenticità formale, cioè un'autenticità che si basa sul consenso della maggioranza delle persone coinvolte, che chiaramente hanno convenienza che quella transazione venga in qualche modo validata. La domanda che giustamente mi facevi tu è che cosa invece non garantisce il blockchain? In altre parole, andando oltre un approccio formalistico o semplicemente formale, perché qualcosa garantisce, che cosa che non garantisce? È che non garantisce la sostanza dietro la forma, cioè l'affidabilità e l'esattezza delle registrazioni contenute nella catena. Quindi la prima cosa per capirsi appunto che non viene garantita è se il dato all'origine, quando è stato inserito per la prima volta nella blockchain, immaginiamo per esempio che stiamo parlando di un registro di quadri. Esatto. Ecco, per capire. Esatto. L'esempio secondo me quadra a pennello. Se ci sono delle informazioni mendaci rispetto a questo registro, queste informazioni comunque vengono validate formalmente, ma non c'è la possibilità di accettarne la veridicità nei contenuti. Questo perché? Perché non si può neanche in qualche modo compensare questa mancata accertamento con l'accertamento dell'identità dell'utente che utilizza gli strumenti di autenticazione, per il semplice motivo che l'identità non è conosciuta. Certo, è anonima. Una delle caratteristiche certo. È l'anonimato, come dice giustamente tu. Ecco, quindi primo aspetto, i dati che sono stati inseriti nella blockchain all'origine non abbiamo una certezza che siano corretti, a meno che non ci mettiamo di mezzo già un terzo in qualche modo che faccia da garante della correttezza dei dati. Ma poi c'è un altro aspetto sul quale tu so che spesso insisti e ne hai accennato nella tua premessa, che riguarda il cosiddetto enforcement, cioè la possibilità di forzare il contenuto del database in certe situazioni. Esempio, ammettiamo che venga usata la blockchain per costruire il registro di proprietà delle automobili che ci sono in giro. Ora, una di queste automobili si scopre è di proprietà di un criminale che se l'è potuta comprare facendo appunto attività criminali. Ora, normalmente la magistratura che cosa fa? Dice alla motorizzazione: ok, quell'auto è sequestrata, cioè il legittimo proprietario non può decidere di venderla, di liberarlo, di fare quel che vuole. Questo non è possibile con la blockchain. Esattamente, questa cosa crea uno stato non soltanto di incertezza giuridica oggettiva, come giustamente dicevi tu, ma anche di percezione di insicurezza da parte degli utenti. E la percezione di insicurezza da parte degli utenti è una delle ragioni fondamentali per la non, diciamo, piena applicazione di nuove tecnologie. Quindi secondo me questo, anche dal punto di vista dell'implementazione della tecnologia, dovrebbe essere un elemento da implementare assolutamente. Ecco, però c'è in realtà una via di uscita. Qual è? La via d'uscita c'è, secondo me è fondamentale trovare un linguaggio più o meno comprensibile, se non identico, tra metodi classici e nuove applicazioni. Questo linguaggio comune non può essere che dato da una possibilità di una blockchain privata o permissioned, in cui di fatto c'è comunque un ruolo da parte della governance, cioè l'autorità che attiva la blockchain comunque ha la possibilità di valutare e di fare un controllo finale. Da una parte questo evidentemente fa venir meno quell'ambizione anarcoide della blockchain pubblica, dall'altra parte può consentire invece, anche attraverso questa tecnologia o proprio utilizzando il potenziale di questa tecnologia, garantisce la possibilità di quel law enforcement che deve rimanere comunque una chiave di volta anche per sistemi futuri. Grazie Oreste Pollicino. Grazie davvero. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani per la terza puntata dello speciale sulla blockchain. Intanto rimanete con noi e buona serata.